Ingrid. La bandiera svedese davanti all'Afton Pressen sventolava mezz'asta. Ingrid era vestita di nero. Anche se era inverno e il sole non si era fatto vedere per tutta la settimana, nascondeva gli occhi dietro un paio di enormi occhiali scuri. Aprì la portiera e scese dall'auto. Mariana Babic era lì che l'aspettava. Le andò incontro e la salutò con un lungo abbraccio affettuoso. «Ce la fai?» le chiese. Ingrid annuì con il viso contratto. Qualcuno doveva aver avvisato i dipendenti del giornale che la vedova del loro capo stava salendo, perché l'intera redazione era riunita attorno al desk centrale. Lei salutò con un cenno alcune facce conosciute, mentre cercava di individuare Giulia. L'ufficio di Tommy era vuoto, con la scrivania coperta di fiori. L'amministratore delegato del gruppo, Ingvar Svedberg, le posò una mano sul braccio e la condusse delicatamente in mezzo al cerchio. Ingrid tenne lo sguardo fisso davanti a sé, mentre Ingvar si schiariva la gola. Tommy Sten era una delle persone migliori e dei giornalisti più coraggiosi che io abbia mai conosciuto. L'Afton Pressen è in lutto. Il mondo svedese dei media è in lutto. Siamo stati privati di una voce forte e importante del dibattito pubblico. Ingrid smise di ascoltare, continuando a cercare il volto di Giulia tra i giornalisti che l'attorniavano. Nell'interrogatorio della polizia aveva ammesso a malincuore che Tommy faceva uso di cocaina, malgrado lei avesse cercato di farlo smettere. Alla fine aveva raccontato anche di essere venuta a sapere 2 settimane prima che era Giulia Wahlberg, la giovane e affermata presentatrice dell'Afton Pressen TV, ad aiutarlo a procurarsi la roba. Gli agenti si erano scambiati un'occhiata eloquente. Ingrid sapeva che quando potevano erano ben contenti di incastrare qualche personaggio pubblico per questioni di droga, per dimostrare che prendevano la faccenda sul serio. Ogni celebrità coinvolta in una retata significava pubblicità, e Ingrid era convinta che avrebbero verificato le sue accuse contro Giulia. Se le avessero perquisito l'appartamento, la sua carriera lampo sarebbe finita. Tutti in redazione probabilmente sapevano già che era stato trovato un sacchetto di cocaina nella giacca di Tommy e che le analisi tossicologiche avevano dimostrato che ne aveva assunta prima di cadere fuori bordo. L'informazione era già arrivata alla rete, soprattutto grazie al forum Flashback. Ingvar Svedberg poteva anche perdere la voce a furia di cantare le sue lodi, ma agli occhi dell'opinione pubblica, ormai Tommy non era altro che un tossico caduto fuori bordo durante una festa aziendale, perché fatto o ubriaco. Un incidente, un terribile incidente, che ha lasciato una donna fantastica senza marito e una bambina senza papà. Ingrid strinse le labbra. Ingvar si schiarì di nuovo la gola e fece un respiro profondo. «Vi chiedo di rendere onore a Tommy con un minuto di silenzio».